Un tema molto caldo anche per effetto dei cambiamenti climatici, visto che abbiamo avuto appena un'ondata di calore enorme a metà maggio, e quindi anche questo è abbastanza anomalo, come ci insegnano i climatologi. Abbiamo due problemi da risolvere, che sono quelli legati alla disponibilità dei combustibili, che è un po' l'effetto invece della guerra dell'Ucraina, e dall'altra parte quello legato appunto ai cambiamenti climatici. Ora, il problema si può risolvere solo attraverso una transizione alle energie rinnovabili, ma noi dobbiamo sapere che le energie rinnovabili hanno come unico limite, diciamo, vero e proprio, seppure hanno tanti pregi, cioè l'energia solare in senso lato è praticamente considerabile come infinita. Il vero problema è che per prendere l'energia solare come vento, acqua, piuttosto che fotovoltaico, biomasse o quelle che sono le varie tecnologie che abbiamo, dobbiamo utilizzare suolo, cioè superficie. E quindi, dovendo utilizzare superficie, che sia poi un tetto di una casa, di un capannone, un qualsiasi altra cosa, dobbiamo arrivare a livello locale, cioè non ci sarà nessuna grande corporate che farà questo al posto nostro, a meno che non succeda quello che sta succedendo un po' adesso, che è quello di andare a colonizzare territori di altri, che siano poi il sud Italia o il sud del mondo. Insomma, anche con le rinnovabili si possono fare colonizzazioni se non stiamo attenti, e quindi c'era bisogno di normare la produzione di energia da fonte rinnovabile come obbligo da raggiungere a livello locale attraverso una legge, ed è per quello che nasce appunto la proposta di legge sull'energia come reca. Quali sono i punti salienti di questa proposta? Ma il punto nodale, cioè il cardine, è quella di responsabilizzare le amministrazioni pubbliche a coprire almeno il 70% del proprio fabbisogno energetico a livello locale, cioè ogni amministrazione pubblica sul proprio territorio deve trovare le risorse necessarie, e queste ci sono ovviamente, perché le nostre simulazioni, chiunque si occupa di questo tema sa benissimo che ci sono, a livello locale. Un altro 30% invece sarà gestito a livello regionale e quindi a livello poi nazionale, cioè, e quindi è quell'energia che non riusciamo a produrre a livello locale, ma che dobbiamo necessariamente importare, diciamo, da paesi limitrofi. Non bisogna fare l'errore, come invece sta succedendo adesso, ed è per questa la necessità di questa legge, che questi termini vengono invertiti, cioè il 30% è quello locale e il 70% diventa l'energia di importazione, perché facendo così inevitabilmente ognuno di noi dipenderà da un altro soggetto in un altro posto, e quindi avremo energia da importazione e non energia da prosumer, cioè da produttori e consumatori al contempo. Ecco, quindi la legge ha il suo cuore, il suo cardine proprio in questo. Ovviamente, che cosa porta questa tipologia di obiettivo? Porta chiaramente a normare a livello locale con la propria cittadinanza quello che è il modo strategico con cui devono essere calate le tecnologie. Questo toglie ovviamente quello che è anche il problema legato un po' all'effetto NIMBY, cioè quello che le persone non vogliono mai le tecnologie a casa loro, qualsiasi tecnologia a casa loro. Questo ovviamente ci porta a fare una razionalità su come vogliamo affrontare il problema a livello locale, quindi anche le scelte tecnologiche diventeranno quelle più adeguate a risolvere il problema a livello locale, che sono anche poi quelle che sono più accettate ovviamente dalla popolazione. Una cosa che mi ha colpito nella vostra proposta è che l'impulso non viene lasciato ai privati, ma, come dire, si chiede che sia il pubblico a farsene carico. Certo, è proprio perché è attraverso la concertazione e la partecipazione delle persone che si aumenta la responsabilità dei territori. Quindi è chiaro che se uno, adesso dico una stupidaggine, però se uno non vuole la pale eolica sul proprio giardino, sa che deve mettersi il fotovoltaico sul tetto, e questa è la parte importante, cioè se ognuno comincia ad affrontare il problema in casa sua, cioè con ciò che per lui diventa accettabile, allora automaticamente avremo trovato la chiave di lettura per i territori, utilizzando poi le tecnologie necessarie. Noi per esempio dobbiamo stare molto attenti sul consumo di suolo, perché ci sono alcune tecnologie legate alle rinnovabili che necessitano di consumo di suolo. Se queste tecnologie possono essere sostituite con altre tecnologie che consumano meno suolo, è molto meglio andare verso tecnologie che consumano meno suolo. Ma se il suolo è mio, cioè nel teso della pubblica amministrazione che sta organizzando la pianificazione del suo territorio, allora starò attento al consumo del mio suolo. Se invece il consumo è quello di un'altra regione, potrei essere tentato a non essere più così tanto attento, un po' come quando per esempio accettiamo gli impianti di estrazione del petrolio in Nigeria, devastando tutto il Golfo della Guinea, e poi dopo magari ci lamentiamo dei pozzi di petrolio invece sui nostri territori, perché inquinano e fanno danni. E allora quando cominciamo a parlare necessarie di energia di importazione, dopo si diventa meno facile capire quali sono le problematiche di altri paesi e quindi non stare molto meno attenti alla responsabilità che abbiamo verso quei territori. Ecco perché dobbiamo fare in modo che le pubbliche amministrazioni diventino l'asse portante proprio della transizione energetica.